Tempo di Sport con Carlo Genta. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Franco Piattarini in redazione, Mauro De Angeli in regia. Mentre El Niño Maraviglia, Sanchez va al Barcellona, 26 subito, 11 e mezzo di bonus che arriveranno. Bojan è quindi ufficialmente da oggi della Roma. Mentre il mitico De Laurentiis stavolta se la piglia, ormai gli facciamo da traino, o lui fa da traino a noi, non lo so, ogni giorno ne inventa qualcuna di nuova, di diversa, di meravigliosa. Stavolta se la piglia col Comune di Napoli ieri e minaccia di portare la Champions a Roma. Oggi dà del cretino a Messi e poi lo sentiremo. Mentre succede tutto questo, proprio oggi esce un libro che è un raggio di sole estivo. La retorica mi dà fastidio quasi quanto la demagogia. Però mi fa un gran piacere invece parlare con il coautore di questo libro, che è un mio amico. Il libro si intitola La Giovane Italia, gli under 19 in cui crediamo. Coautore di questo libro insieme a Stefano Nava, che è Paolo Ghisoni. Ciao Paolo. Fa piacere per l'amico, insomma, al di là di tutto quello che hai detto. Beh, questo lo sai. È con noi anche invece l'editore di questo libro, che è un nuovo amico, editore indiscreto, e c'è Stefano Olivari. Ciao Stefano. Ciao. E ci saranno anche gli ascoltatori. 800 24 00 24 il numero verde, messaggi 349 238 6666. Dunque, gli under 19 in cui crediamo, profili del futuro, sì, giovani, diciamo, italiani del futuro, sì, speriamo, noi ci crediamo. Poi bisogna vedere se le strutture, i vivai, gli addetti ai lavori, gli allenatori, se saranno in grado poi di poterci lavorare, offriranno poi una conferma a questi 232 ragazzi. Lo diciamo subito, io rispetto a Stefano ho una teoria, che le magagne vanno subito portate fuori, sì, perché umanizzano i personaggi, non bisogna essere troppo, come dire, prigionieri del proprio personaggio. 10 interisti sono sfuggiti un attimino al nostro controllo e non sono stati messi, sono ragazzi degli allievi nazionali del gruppo di Giorgio Gatti, quindi gli eredi del, speriamo, della primavera interista che ha vinto il Viareggio. Abbiamo però, Stefano, optato per una soluzione che hai elaborato tu, quindi ti lascio la spiegazione. Quale? Semplicemente li abbiamo messi sul sito web del libro, che è lagiovaneitalia.com, anche come esempio del nostro lavoro, un lavoro unico che hanno fatto ovviamente Paolo e Stefano Nava. Un lavoro che non c'era, quindi non è la solita scopiazzatura di Wikipedia o delle statistiche, gol fatti, gol subiti, che ci sono su mille siti, ma è un lavoro originale, quindi già questo meriterebbe. Poi sono leggermente di parte. Sì, ma io il libro in mano, me l'avete portato voi ora, è appena uscito, è fresco di stampa, ancora l'inchiostro che macchia. Dietro questa copertina blu c'è una prefazione che vorrei che mi spiegasse Paolo Ghisoni. Motivati da Mourinho, cosa vuol dire? Che José è ovunque, come dice qualcuno che adesso non è più in Italia. E l'aneddoto è questo: in che cielo e in terra, e in ogni luogo. Un vetrino, non lo so. Resta il fatto che è lui indirettamente che ci ha dato questa idea, perché un suo assistente, non più di 2 anni fa, si trova una partita casalinga a dover fronteggiare un ragazzo di colore della Regina, Daniel Adejo, niente male. È solo che questo arriva dalla primavera e gioca a San Siro in una posizione un po' ibrida, perché cosa fa Nevio Orlandi, ex allenatore della primavera della Regina? Lo colloca dalle parti di Maicon, lui che in realtà in primavera gioca come laterale destro. Telefonata alle 2:15, io sono, lo racconto nella prefazione, a pranzo con Stefano, e niente, la domanda è: Paolo, Daniel Adejo dove gioca? E la cosa, che un assistente di Mourinho mi telefoni per chiedere dove gioca un ragazzo della primavera, apre una serie di ragionamenti infiniti. Cioè Mourinho, che sa tutto, quindi che è preparato a 360 gradi, alla fine chiede all'umile scriba Ghisoni dove puoi giocare Adejo. Se non lo sa Mourinho, chissà quanti lo sapranno. E da qua, in maniera un po' giocosa, insomma, parlando anche con Stefano, gli Stefani, perché sono due, no? Nava da una parte e Stefano Olivari dall'altra, perché non proviamo a ipotizzare con caratteristiche, cioè un mix di giornalismo e di diciamo di situazioni un po' più da addetti ai lavori, creare delle schede proprio che in base erano un po' già abbozzate nei lavori di primavera, alla fine con caratteristiche tecniche, in prospettiva dove può migliorare, chi ci ricorda come idea, delle note personali, perché molte volte è anche importante capire il trascorso storico del ragazzo, un dicono di lui che è una sorta di referenza sul curriculum, e poi soprattutto quello che chiedono di più, chiedo la conferma a Stefano, sono lo storico, le presenze, i gol, perché molte volte un direttore sportivo va a prendere un giocatore basandosi su quello che è il nome, su un riferito, senza magari sapere quante presenze, quante gol nella stagione appena alle spalle ha appena fatto, insomma, quindi un lavoro speriamo omnicomprensivo. Stefano, sarà il caso di mettere questo libro in una busta e spedirlo a José a Madrid? sì, lo faremo. Già abbiamo qualche canale, siamo a metà strada. Il modello, tanto per fare un esempio baschettaro, in origine era lo Zander Hollander, che magari sì, i più vecchi ricorderanno, ecco. Ce li ho ancora a casa. Oggetto assolutamente di culto, cioè qualcosa a metà, diciamo, fra il profilo del personaggio e l'aspetto tecnico, ecco. Io aggiungo, essendo tennista, ATP Tour Media Guide o WTA Tour Media Guide, che è né più né meno, insomma, la stessa cosa che abbiamo fatto a livello calcio giovanile. Sì. Insomma, grandi modelli, poi ci siamo noi, ecco. Senti, ragazzi, ma in rampa di lancio chi c'è? Ce ne sono, ma io prendo le parole di Mihajlovic come punto di riferimento e punto di partenza. I giovani ci sono, io ho il coraggio di farli giocare. Bisogna vedere se la gente ha il coraggio di aspettarli. Obiettivamente è un bel processo che ci aspetta. Non credo che oggettivamente ci sia molto ottimismo, perché vedo ancora adesso, insomma, vedendo questi primi giorni di calciomercato, che il nome esotico, il secondo extracomunitario, fa sempre più appeal rispetto a uno di questi 232 che magari ha le stesse qualità, però ha la sfortuna di finire in INI, ONI e non in AS o IGNO oppure cose di questo genere. È suffisso che conta. C'è uno che finisce in Awi El Charraoui, che è italiano e che potrebbe essere la the next big thing, come dicono gli americani. È stata una, nel nostro una grossa sorpresa per quanto riguarda la stagione alle spalle. È un ragazzo che però da anni si diceva che era un po' predestinato. La cosa importante, perché ci sentiamo, e mi piace sottolinearlo, è uno che è arrivato al Milan, però appena ha fatto la maturità. È stato promosso, io i complimenti non li faccio come calciatore, glieli faccio prima come maturato. Bravo Paolo, ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24, se volete intervenire, messaggi 349 238 6666, poi parliamo anche di De Laurentiis, idolo assoluto di quest'estate. A dopo. A tempo di sport. Allora riprendiamo i nostri discorsi sempre con Paolo Ghisone, coautore con Stefano Nava di questo libro Giovani Italia 2011, che traccia i profili del futuro del calcio italiano, degli italiani nel calcio italiano, con lui e con Stefano Olivari, che è editore di questo libro. Io ho ricevuto, ragazzi, una soffiata un annetto fa, mi parlavano di Simone Pasa dell'Inter. 94. Buon giocatore. Gran piede sinistro, quest'anno tra l'altro aggregato alla primavera, ha giocato un paio di partite, una è stata determinante nel portare l'Inter nei quarti di finale di Primavera Team Cup, segnando a Genoa, contro il Genoa che era la detentrice del titolo. Sì, centrocampista offensivo, ragazzo, mi dicono, anche molto posato, educato, si è andato proprio col coltello dove c'è la ferita, perché è uno di quelli che Giorgio Gatti ci ha segnalato, l'allenatore degli allievi nazionali. Ma verranno integrati dal sito. Verranno integrati. Senti, troverete tutto lì. Ai ragazzi italiani, queste esperienze all'estero, mi viene in mente Borini, ma lo stesso Giuseppe Rossi, naturalmente. Trotta. Sì, ce ne sono molti. Caldirola, esatto. No, però è una cosa diversa. Secondo me stava andando su un altro ragionamento. Ah, sai? Sui Caldirola propedeutico, sì. Questi altri invece. Questi no, il discorso è questi stage all'estero fanno bene ai giocatori italiani, secondo te? Perché guardando il rendimento di Macheda, il non rendimento di Macheda alla Sampdoria mi fa dubitare che... Adesso dirò una cosa che mi attirerò antipatie e quindi possibili lettori in meno. La chiave sono i genitori. l'aspettativa del riscatto sociale eventuale del genitore sul figlio è determinante, nel senso, esempio, Camilleri, ragazzo di ottima famiglia, viene prelevato a 15 anni da un jet privato del Chelsea per andare a fare questa esperienza. Attirato da che cosa? Dai soldi sostanzialmente, la possibilità di un contratto di un certo tipo. Allora, se l'aspettativa è, prima Stefano ha citato Caldirola, ovvero andare a giocare per poi essere uno di quelli che torna e Gasperini dice no, tu non ti muovi, però dove? Nella Serie B olandese? Ha un certo tipo di, diciamo, di resoconto e di riscontro. Se tu invece vai in un club importante, un po' anche l'errore che fanno i ragazzi più promettenti adesso che escono dalla primavera, non andate a giocare nel top club, come direbbe qualcuno, accontentatevi di andare a fare un'esperienza tipo Giovinco in B con l'Empoli. Lì avete bisogno di fare uno step successivo e di giocare. Se vi fate attirare dal Chelsea, dal Manchester, per andare a fare poi il campionato riserve, allora state qua e fate una buona Serie B. Sei d'accordo, Stefano? Sì, sicuramente. Possiamo allargare questo discorso anche ad altri sport. Sì, quello senz'altro, ma rimanendo per un attimo nel calcio, ci sono anche giocatori con caratteristiche molto diverse. Ad esempio, un giocatore tipo El Shaarawy rende molto meglio, molto di più in un top club, usiamo ancora questa definizione, che magari in Serie B, dove gli mirano direttamente alle gambe. Sì. Questo, quindi dipende anche, secondo me, dalle caratteristiche di un giocatore. Poi, ecco, è un discorso che si può fare anche per molti sport. Ad esempio nel basket si parla da quando siamo in fascia del campionato di perfezionamento. Sì. Cioè sostanzialmente usciti dalla squadra juniors si fa solamente panchina, anche complici determinati regolamenti. Nella pallavolo anche i giocatori italiani sono sempre di meno. Va detto però che la grande paura di tutti, e anche di questi ragazzi del calcio, è quella di uscire un po' dai radar della grande squadra. Certo, tu fai mirabilia in Serie B, in Lega Pro, eccetera, però rischi di rimanere lì. Oppure peggio ancora, rischi di essere tenuto sott'occhio, ma di essere etichettato come giocatore di categoria. Sì, sì, bravo, sì, ma di categoria. Certo, certo. E Shaarawy in Serie A una partita, a 16 anni. E vediamo come quest'anno mantiene il gioco. No, ma dico, cioè il Genoa è la prima società che non ci ha creduto, perché sì, quest'anno credo che dopo la stagione l'anno scorso c'era la possibilità di far giocare Stefan titolare, mi pare, no? Cioè, direi di sì. Alla fine vai nel Genoa che sta nascendo, direi di sì. Infatti mi ha sorpreso parecchio questo, anche la facilità anche con la quale il Genoa ha detto va bene, volete Shaarawy, prendetelo, Merkel in cambio, questo accordo, su questa direttrice Genoa-Milan che negli ultimi anni, insomma, sì, sì, è caldissima. Dunque adesso vorrei però farvi sentire, poi continuiamo a parlare insieme di giovani, di questo libro, di questi profili, 800240024, se volete, però non voglio farvi mancare anche oggi un paio di De Laurentiis. Partiamo da quello di ieri e da questa minaccia. Armi e bagagli e andiamo a Roma! Pianto che è un pianto. Ho parlato con un mio caro amico, che è Petrucci, presidente del CONI, e gli ho anche detto, senti, ma perché io sono pazzo, e la gente lo sa, che ne diresti se io a un certo punto, facendo un accordo con Moretti per le ferrovie dello Stato, portassi tutti i napoletani a Roma a giocare all'Olimpico, qualora mi girassero le scatole? E chi lo sa? E chi lo sa? Vediamo. Vediamo, perché significherebbe giocare in 80.000 piuttosto che in 60.000. Vediamo perché. Calma, perché il San Paolo è del comune. O il comune si schiera dalla parte del Napoli, o il comune si schiera contro il Napoli. Schierandosi contro il Napoli si schiererebbe contro di voi. E non ci sono santi che tengono. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Addio, mia bella Napoli. E certo, se va via da Napoli, non lo farà. Ma a Roma, poi addirittura. A Roma. Il Napoli va a giocare alla Champions League a Roma. Chissà cosa ne dice mezza capa. quante ne pensa e quante ne sa De Laurentiis? Se è così positivo, ci sono anche, mi sembra, altri problemi da risolvere a Napoli ultimamente. Quindi, sì, so, sì, sempre facendo uscire a Monnezza? No, lo dico io, cioè, così propositivo mi pare che, insomma, adesso una delle questioni da ridimere, da dirimere dal punto di vista politico, è proprio capire dove stoccare, sì, questa quantità. In uscita si faccia venire un'idea, ci dica qualcosa. Beh, ma se glielo chiedono, lui propone. Oggi ne ha detta un'altra, che adesso vi faccio sentire. Ne ha detta un'altra meravigliosa. Allora, il De Laurentiis di oggi, il De Laurentiis pensiero è questo. Quindi io sono contrario a fare andare in questi campionati, qualunque tipo di campionato, una squadra nazionale composta, perché dovrebbero andare le primavere, dovrebbero andare quelli che hanno 20 anni, quelli che hanno bisogno di quella vetrina. Ma che io devo spiegare che Messi, quando io vedo qualche giornalista che dice Messi sta giocando male, no, Messi è un cretino che accetta di andare lì, perché se io fossi Messi direi io non vengo, fatemi tutte le cause che volete, radiatemi, ma io non mi vengo a sputtanare, perché io sono un grande giocatore, voglio giocare con il mio Barça c'ha un suo modulo di gioco e non venga a fare la vetrina per quattro coglioni che non sanno come farmi giocare. Lavezzi è un cosiddetto, tra virgolette, scapigliato. Ci sono stati gli scrittori scapigliati, ci sono stati una serie di poeti scapigliati. Lui è un poeta del pallone scapigliato. Dipende da lui, non dipende da me. Risponde fratellino, fratellone. Allora, Messi è un cretino. Lavezzi invece è uno scapigliato e a giocare i tornei prenazionali, compresi i mondiali, ci vadano i ragazzi che tu descrivi nel tuo libro. Magari. Ci vadano loro. La cosa più bella è Barça. Barça. Magari. Come la vedi? Come la vedi la De Laurentiade di oggi? Di Lavezzi so che lo aspetta dichiarazione l'altro giorno a Castelvolturno a braccia aperte per chiarire questa situazione, quindi direi che forse, stando alla sua Butad, se non lo faceva manco partire, gli spiegava questa teoria un po' prima, probabilmente evitava anche di frequentare il Messi cretino che abbiamo sentito. Sì. Poi non lo so, obiettivamente sono argomenti più grandi di me. Hai sentito ieri quando diceva e i medici dell'Uruguay stiano attenti, perché se fanno giocare Cavani rotto e si fa male è perché Cavani non la vuole giocare la finale di Coppa America, secondo li me ammazzo, non vuole con giocare. Suarez che gli passa davanti da tutte le parti e Forlan che non lo sposti nemmeno se arriva al Papa. Vabbè. È comunque in versione cinema quello che tutti i presidenti italiani pensano. Ma guarda Stefano, ma meno male che c'è De Laurentiis, ma io comunque alla fine adoro i personaggi che si espongono, adoro i personaggi che si espongono, noi lo facciamo sentire tutti i giorni, è quasi la colonna sonora dell'estate questa continua uscita. Possiamo pubblica dire che De l'erede Laurentiis di Mourinho? È l'erede di Mourinho in piena regola, ma speriamo che ce ne siano degli altri, no? Perché alla fine, al di là della... tutti dicono, bravi, così non lavorate, non cercate i titoli... Ma no, ragazzi, così ci divertiamo un po', così non sentiamo ripetere mille volte la frase della palla rotonda, insomma. Andrea, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, io volevo intervenire in merito a quanto dicevate prima sul discorso dei giovani che vanno all'estero. Sì. Tutto vero, per carità, perché farsi attirare da un discorso legato esclusivamente al riscatto sociale è un errore. Tuttavia io penso una cosa, Macheda che segna l'esordio contro l'Aston Villa all'età di 17 anni in Italia non si vede mai e non si vedrà mai, secondo me. Macheda non è Rivera, per cui in Italia non avrebbe avuto l'opportunità di esordire a quell'età. Però Paloschi che segna quando lo fai giocare dopo 4 secondi contro il Siena, sì, l'abbiamo visto, tanto per fare un esempio di un nazionale under 21, come Macheda. Però onestamente Paloschi secondo me è stato l'azzardo, è stata la disperazione di un Milan che, cioè io mi ricordo bene tra l'altro che sono anche milanista, anzi io tengo Manchester e Milan, per cui sono proprio le due squadre mica messo male. Che avevo maggiormente. però io penso che anche Giuseppe Rossi, ad esempio, se non fosse andato a giocare in Inghilterra, io non so qua in Italia, ha fatto una stagione splendida al prestito qua al Parma e nessuno ha creduto in lui, è andato a vivere là per 12 milioni di euro, adesso lo vuole per 30 milioni. Perché nessuno, dopo che un 19enne segna 9 gol in 18 partite, pensa di portarlo a casa? Perché deve andare a Villarreal per giocare? L'errore non è nel giocatore che si fa tirare dal riscatto sociale, sì, ma nelle squadre che non hanno il coraggio di investire in lui. Sì, questo, io sono abbastanza d'accordo, Andrea, sono abbastanza d'accordo, perché insomma noi ci portiamo dietro questa forma mentis per cui rischiare coi giovani non si può e non si deve. Ma poi deve strabiliare anche subito all'inizio. Di Macheda ci ricordiamo di questo exploit, ci ricordiamo di Paloschi, ci ricordiamo magari di Destro vagamente, che segna la sua prima partita da titolare, ma poi il Genoa quella partita non mi ricordo se la pareggia o la perde, quindi buonanotte ai suonatori. In realtà il concetto è proprio diverso, che le prime 10 partite di Fabregas in Inghilterra sono state un disastro, eppure all'11esima Wenger l'ha messo ancora titolare. Xavi e Iniesta giocano insieme da quando avevano 11 anni, poi è chiaro che adesso fanno la differenza, però erano due che Cruyff ha avuto la capacità di impostare come giocatori che poi fanno il gioco, importare e quindi poi dopo caratterizzare tutta la squadra del Barça con un procedimento di 10, 11, sì, 15 anni. Noi, giocatore piccolo, già adesso va di moda la Spagna, ma il giocatore piccolo è un disastro, perché lì in mezzo al campo serve quello fisico, quello che fa legna, quello che già a 15 anni ha il 1,90 e le gambe di Xavier Zanetti, tanto per dire. Sì, sì. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. Tra l'altro oggi è venerdì, facciamo anche il quizzone, cosa ne dite? 800240024, quizzone approfittando della presenza di Paolo Ghisoni e Stefano Olivari. Vi aspetto. A tempo di sport. Ecco che torniamo, vicino a me Paolo Ghisoni, Stefano Olivari, sul tavolo la giovane Italia, gli Under 19 in cui crediamo, un libro di cui stiamo parlando oggi con autore ed editore. Intanto per la cronaca c'è la risposta di Moratti alla lettera di Della Valle. Prima un'ascoltatrice, da Lori, se non ricordo male, via sms mi domandava: ma cosa ne pensa della lettera di Della Valle? Grosso modo che Della Valle ha ragione, cioè condivido la sua posizione. Moratti no, perché risponde: è un tipo di domanda che dovrei fare io, che dovrei fare a lui o a loro, perché io non ho risposte da dare. Quello che pesa di più è quello che è successo allora a noi, non vedo perché dovrei giustificarmi, al massimo è il contrario. Così Moratti risponde a Della Valle aggiungendo: non voglio giudicare il tono, che non mi è piaciuto per niente, mi siederò al tavolo con Della Valle, penso che si divertiranno a fare una rimpatriata tra loro, io sarei noiosissimo. Cosa ne pensi, Paolo? Ma anche basta, sinceramente, dopo 5 anni. Cioè, io penso da tifoso interista semidichiarato che la mossa migliore, non so se appartengo a una fetta di persone che la pensano così, è che quello scudetto non sarebbe da assegnare. Cioè, si riconsegna, si dice: vabbè, tanto. Esatto, non cambia nulla. Io non sono interista, ma sono d'accordissimo, l'ho dichiarato mille volte. Lo vuoi tenere, rinuncia alla prescrizione, ti fai giudicare dalla giustizia ordinaria, non lo so, mi sembra la cosa più sensata, se no poi andare avanti con sto rimpiattino di dichiarazioni. Però qui faccio parlare Stefano perché è più ferrato sull'argomento. Sì. No, il grande alibi di Moratti è in quegli anni di non aver vinto o avere perso, voglio dire, ecco, quindi sicuramente anche rispetto a una Roma della situazione, ecco, diciamo, lui non ha avuto il suo scudetto in quegli anni, ecco, quindi in qualche modo al di là poi delle responsabilità individuali si ritiene, diciamo, ad alto livello, diciamo, fra i club di un certo livello, la vittima della situazione, ecco. Poi Della Valle giocava in un altro girone poi in quell'epoca, ecco, sì. Quindi beh, però sarebbe anche ora di piantarla, come dice Paolo, col vittimismo. Allora vuoi tenerti quello scudetto, va lì, difenditi e di pubblicamente quello che pensi, perché il mutismo in questa situazione mi sembra deleterio anche per entrare nel merito. Entrare nel merito. E comunque il peccato originale è stata la assegnazione attraverso questo artificio del decido non decido muovo le pedine della classifica fino all'Inter prima. Insomma, il peccato originale è stato quello, perché per come la vedo io, se un campionato è inficiato, è falsato e il titolo non si assegna, come è accaduto l'anno prima. Il peccato originale forse è stata la famosa cena da Carrara delle sette sorelle nel 99, in cui si stabilì l'esistenza del doppio designatore, cioè sostanzialmente c'era il designatore di fiducia di una parte di squadra e il designatore di fiducia di un'altra parte, cioè Bergamo e Peiretto, voglio dire, quindi tagliando fuori il resto del calcio italiano. Quindi lì si è stabilito che comunque i campionati sarebbero stati in qualche modo pilotati, ecco, quindi da lì in poi, ecco, è successo tutto quello che sappiamo. Se si fosse stabilito invece un doppio arbitro, o come adesso siamo arrivati in Champions con i 5 arbitri, probabilmente avremmo risolto anche una buona parte del 30% di episodi tipo simulazione in area, gol non gol. Andiamo sulle cose concrete. Dopo 5 anni sinceramente basta. Cioè, e lo dico, ripeto, schierato da un'altra parte. No, ma è un pensiero che, ti ripeto, condivido, pur non essendo schierato dalla tua parte. Allora, mi sta venendo la depressione addosso a parlare di queste cose. 800 24 0024, me la levo subito. È venerdì, il quizzone. Benissimo, ed è così che adesso metto in difficoltà Paolo Ghisoni e Stefano Olivari. Le domande non sono preparate. Le domande non sono preparate, mi sono rifiutato di... Ma è come il trivia, cioè si può scegliere il formaggino oppure no? Non è come il trivia, dopo bisogna dare risposte secche. Cominciamo da Paolo Ghisoni. Mister X del Milan è Fabregas o De Benedetti? Bella, Montolivo. Stefano? De Benedetti. La Juventus pensa davvero di vincere lo scudetto con Pirlo e Vidal? E anche pazienza. E credo Rossi. No, ma è importante che lo si scriva almeno per 2 mesi. Ma è più potente Totti o Baldini che gli dà del pigro, Paolo Ghisoni? Vito Scala. Stefano? Totti, perché una Roma che voglia basarsi su un modello di merchandising eccetera eccetera non può prescindere dall'unico suo volto riconoscibile. Una domanda per Paolo Ghisoni: che fine ha fatto Mino Raiola? È riciclato nell'alimentare in Olanda. Una domanda per Stefano Olivari, noto appassionato di basket: l'Armani che continua a rincorrere Siena prendendo i giocatori, la raggiungerà mai? Sì, questa volta ce l'ha fatta, forse più in Europa che in Italia, perché tutti gli altri si sono ridimensionati, diciamo, stanno fallendo gli altri, quindi l'Italia sta salendo. Un'ultima domanda per entrambi. A meno che scoppi un altro Basketopoli, e a quel punto lì, come Ibra, Ieira, riscriviamo tutto. Un'ultima domanda per entrambi: come finirà la saga di De Laurentiis? Non finirà con lo scudetto del Napoli. Grandi ragazzi, non avete vinto niente, ma siete stati bravi. Stretta di mano. Stefano, ma sempre a proposito di basket, il venerdì insomma è il nostro cavallo di battaglia stagionale del venerdì, adesso è estate, quindi gli argomenti si mescolano. Vedremo davvero le stelle dell'NBA sui campi d'Europa, perché c'è Deron Williams, che è una superstar assoluta, che è già d'accordo con Besiktas, che adesso vuole Kobe Bryant, il quale chiede 1 milione al mese. Beh, ma è un sogno d'estate o complice dell'estate del lockout NBA, oppure li vedremo davvero? Se il lockout durerà tutta la stagione, o comunque avrà realistiche possibilità di durare tutta la stagione, vedremo anche qualche stella vera, al di là del discorso assicurazioni eccetera, che poi è quello più importante dal punto di vista economico. Se invece il lockout sarà come quello della stagione 98-99, cioè dimezzerà sostanzialmente la stagione, a parte Deron Williams, di stelle di quella grandezza non penso che ne vedremo altre. Nessuna squadra, cioè nessuna Armani, nessuna Siena, la situazione investirebbe 5 milioni per perdere un giocatore in gennaio, ecco. Però scommettiamo, se c'è il lockout e se si riescono a mettere a posto le pratiche burocratiche, legali, assicurative eccetera, Milano a Danilo Gallinari un pensiero lo fa. Sì, sì, quello sicuro, quello senz'altro. Però ecco, Milano già negli anni scorsi aveva la possibilità di portarsi Iverson a un relativamente prezzo da amatore, non l'ha fatto. Ecco, pur avendo Armani, quindi un marchio di livello mondiale, diciamo, questa operazione di immagine non è tanto portata a farla. Ecco, però Gallinari sicuramente non sarebbe solo immagine. Posso aggiungere una cosa, certo, visto, Paolo, che anch'io sono un po' indiscreto. Io so che Gallinari a Milano ha la persona che gli cura la schiena meglio di tutti, che è un ex preparatore dell'Olimpia, si chiama Simone Lassini, sì, e quando arriva da New York la schiena va a farsela regolare da lui, sì, quindi un buon motivo direi per ricostruirsi, sì, no, anche lui, dal punto di vista fisico. Sai, ma lui sta qua ad allenarsi comunque fino a quando là, non, questo è dichiarato, non cominciano se cominciano, ma poi quanto a mettere la maglia e andare a fare le partite, questo è un discorso molto diverso e più complicato, però è chiaro che se lo cavo avanti, come è arrivato Deron Williams al Besiktas e come potrebbero arrivare altri superstar, Daniel Gallinari a Milano, tenteranno di portarlo. Roberto, provincia di Ferrara, anche oggi tantissimi ascoltatori che hanno chiamato 800 24 00 24, anche tanti, anche quelli che hanno scritto come De Laurentiis batte Mourinho 4-0, scrive Gianni da Genova, mentre c'è chi dice ma come fa a essere entusiasta di un buzzurro come De Laurentiis? A me diverte, non so a voi, se siete tristi dentro non è colpa mia. E attenzione alla gara di ritorno quando Mourinho torna. Roberto, come Don Peterson fra 23 anni. Secondo me meno. Tra un anno ci troviamo qui a quest'ora, vediamo, vabbè, facciamo il punto. Roberto, provincia di Ferrara, buongiorno. Buongiorno a voi, sono un triste dentro. Triste dentro? Perché, no, scherzi a parte, sì. Volevo intervenire proprio su De Laurentiis, che sta appassionando un po' tutti, soprattutto negli ultimi giorni, no? E anche nella vostra trasmissione. No, era solo un inciso, siccome secondo me è abbastanza calzante, no, il paragone con Mourinho. Sì. E a me viene l'orticaria, almeno l'anno scorso, negli anni precedenti, qui Mourinho era in Italia, ha avvelenato un po' i pozzi, no? Come giustamente dice Garanzini, quindi non voglio entrare nella solita polemica, Mourinho, il personaggio, eccetera, però non vorrei che De Laurentiis, che non è un pirlo, non è fisso, come suol dirsi, stia escogitando più o meno la stessa strategia per, come dire, mettere le mani avanti e magari avere anche dei benefici da questo modo di agire, che a me non piace assolutamente. Però il motivo della mia chiamata su De Laurentiis è anche l'altro, cioè la dichiarazione che ha fatto ieri, che lei ha fatto sentire prima, che io Quale? Non conoscevo. Quella del Porto, Napoli a Roma? Sì, ma soprattutto il discorso del comune, che se non sta con me è contro di voi, tifoseria. Insomma, io ci riderei poco, vista anche il livello intellettivo delle tifoserie che ci sono in Italia, no? Di tutte le curve, dai cori razzisti veronesi ai tifosi laziali, milanisti, di ogni dove. Cioè, non vorrei che poi noi ci ridiamo sopra, ma qualcuno magari lo prende anche sul serio. Tutto qua. Sì. Grazie Roberto. Se qualcuno lo prende sul serio è malato, ma lei dice la malattia impera e dunque bisogna stare attenti a quello che si dice. Non credo che la strategia di De Laurentiis sia quella di procurarsi vantaggi immediati, anche perché non so che vantaggi possa avere nel dire che Messi è un cretino perché va a giocare in nazionale. Ecco, cioè l'erede di Maradona mi sembra che ci vorrebbe volentieri a Napoli fin quando lui è presidente, dopo questa presentazione. Cosa dici, Stefano? Diciamo che a lui l'esposizione mediatica piace, adesso non è che stia cercando di guadagnarsi i crediti, anche perché queste cose si fanno a stagione iniziata, diciamo ci sono mille mezzi molto meno evidenti di questi. Insomma, gli piace il cinema anche a livello personale, ecco, quindi sì, sicuramente si sente al centro dell'attenzione, perché appunto parlavamo di tristezza, sostanzialmente il calcio italiano si sta intristendo, perché a me intristisce da morire, ma mi intristiscono poi ci sono anche quelli molto tristi che scrivono uno dei problemi del calcio siete voi giornalisti che dovete sempre fare notizia, vedi un po'. E beh, allora senza notizie perché comprare giornali? Devo ascoltare la radio. Abbonato, questo secondo me è uno dei tre quotidiani sportivi. Sì, eh. La tristezza impera. A tempo di sport. Sempre con Paolo Ghisoni e Stefano Olivari, però è anche il momento di cominciare a dare un'occhiata dal buco della serratura, un weekend che sarà pieno di cose e di corse motoristiche. Umberto Zappelloni, vice redattore della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ma un domandone, ma davvero la Red Bull ha paura di Alonso? Umberto. Guarda, io dico mondiale, mi sembra in tasca di Vettel, 92 punti di distacco, sono veramente un'infinità, insomma lui dovrebbe suicidarsi e con lui anche Webber dopodomani. Però l'Alonso visto nelle ultime gare, soprattutto nell'ultima gara in Inghilterra, è un Alonso pericoloso perché la macchina è tornata ad essere veloce, affidabile lo era anche all'inizio, è tornata ad essere in situazioni anche che non erano quelle propriamente da Ferrari, in situazioni anche critiche. Quindi Alonso potrà divertirsi molto in questa seconda e ultima parte della stagione, potrà vincere le gare, sta già facendo molto bene oggi anche al Nürburgring, che non era una pista favorevole alla Ferrari, dove ha fatto miglior tempo stamattina e dove lo sta rifacendo oggi nel pomeriggio, dove la sessione è in corso, ma lui è ancora davanti a tutti, davanti a Massa, che conferma quindi la buona forma della Ferrari. Per cui c'è una Ferrari che potrà divertirsi e vincere delle gare in questa finale di stagione. Avere paura di perdere il mondiale però mi sembra un po' eccessivo, dovrebbe esserci molti problemi in casa Red Bull. L'anno scorso il discorso era diverso perché si rubavano punti a vicenda Webber e Vettel, quest'anno non se li sono mai rubati, quest'anno le gerarchie in seno alla Red Bull sono chiare, anche loro hanno fatto dei giochi di squadra, l'anno scorso prendevano in giro chi li faceva, quest'anno lo hanno appena fatto loro, per cui il mondiale lo vedo abbastanza tranquillamente nelle loro mani, però vedo anche una Ferrari che potrà farci divertire, potrà far divertire i tifosi in questo finale di stagione. Sì. Stefano Olivari, che ne pensi? Ma sicuramente la classifica è assolutamente delineata, ecco, poi nella Formula 1 penso che non si inventi niente, cioè non ci sia il colpo di fortuna, ecco, quindi sicuramente è delineato il mondiale, ecco, lo guardiamo per inerzia, dico, ma visto che prima parlavamo di tristezza, la tristezza è quella che ammanta la stagione in rosso, non solo quella della Ferrari ma anche quella di Rossi sulla rossa. Beh, diciamo anche che quando Schumacher vinceva in luglio già matematicamente i campionati c'era, mondiali eravamo meno tristi. C'erano un po' più di sorrisi in giro. Paolo, da sportivo, come vedi questo matrimonio così difficile di Valentino Rossi sulla Ducati? Ma tecnicamente non mi esprimo perché non ne ho assolutamente le competenze. Ho letto ieri una intervista, mi pare il 30 giugno, sul Corriere della Sera 7, e così ho la sensazione che sia un po' passato il carpe diem per lui, trovando altre motivazioni. Dici? in altre discipline. Vorrei tornare al discorso della Formula 1. Mi sembra che adesso sia nella fase giovanottiana, nel senso proprio del termine, insomma, che ha iniziato in un modo e poi dopo ha percorso altre strade. Lui è sempre stato un ragazzino terribile che ha bruciato le tappe, adesso credo che maturando, non lo so, la manopola dell'acceleratore la valuti anche in un altro modo, o sei disposto o meno a rischiare e a mettere in gioco te stesso rispetto a quando hai una fame e un'incoscienza completamente diversa. Questa è un'impressione, ripeto, però più personale. La facciamo leggere da Umberto Zappelloni. Ma guarda, io penso autorevole. Che sia, alla base di tutto ci sia un grosso problema tecnico, nel senso che lui non riesce proprio a guidare questa Ducati, una Ducati che è una moto decisamente difficile e che rivaluta secondo me anche quello che ha fatto Stoner negli anni passati, perché Stoner lo abbiamo tanto criticato, però Stoner con quella moto, con quella Ducati che sembra così inguidabile vinceva e ha vinto anche un campionato del mondo, e Valentino invece non riesce a trovare feeling con questa moto, il feeling per un pilota che in tutta la sua carriera è stato abituato a guidare e anche bene moto di un altro tipo è difficile poi inventarsi. Il matrimonio è sicuramente fallito perché tutti ci si aspettava una Rossi e una Rossa che potessero, se non dominare il mondiale, almeno cominciare almeno divertirsi, almeno vincere qualche gara. Invece mi sembra che ma non c'è stata troppa testardaggine da parte della Ducati nell'insistere su un progetto che già si sapeva non andava bene per le caratteristiche non tecniche bene, di Valentino Rossi. Però ci vogliono dei tempi per rivoluzionare una moto, soprattutto la Ducati si è sempre detto, ma Rossi lo conferma, che più che una moto sono quattro tubi di ferro messi attorno a un motore, e questo motore però poi va portato in pista al massimo e Valentino non ce la fa. Io credo che Valentino abbia ancora voglia perché non sarebbe da lui finire la carriera così male, finire la carriera senza riuscire a vincere ancora, a dimostrare di essere ancora almeno nelle gare, in alcune gare, a livello dei giovani terribili che stanno arrivando in questo mondo mondiale, che quest'anno stanno dominando il campionato. Non so se il matrimonio con la Ducati potrà continuare, però Valentino è un testardo, Valentino ha voglia poi di arrivare fino in fondo nelle avventure in cui si tuffa, e credo che un altro anno come minimo ci sarà per lui e per la Ducati, però si spera con una moto diversa da quella di quest'anno. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie a Umberto Zappelloni, dunque, con cui abbiamo aperto la, insomma, abbiamo cominciato a guardare ciò che succederà nel weekend. Oggi primi giri a Nürburgring, poi c'è Laguna Seca per quanto riguarda le moto. Su quel cavatappi io la vedo malissimo ancora per Rossi sulla Ducati. Non vorrei, ma lo penso, non vorrei che ci fosse un'altra figuraccia. Comunque domenica dalle 4:30 alle 5 si parla di motori su Radio 24. Invece chiudo con i miei ospiti Paolo Ghisoni e Stefano Olivari. Ragazzi, adesso però mi dovete dire i nomi di qualche giovane che nel contesto in cui si trova può diventare importante per la sua squadra quest'anno. A livello giovanile, cioè per la prima squadra, naturalamente. Qualche giovane che può esplodere. Io direi, mi vado a leggere il profilo subito. Io direi Camporese per quanto riguarda la Fiorentina, se gli danno fiducia, un giocatore che ha bisogno semplicemente di minuti per crescere anche come caratteristiche, e non è una novità. Altri ragazzi, obiettivamente, io l'ho detto prima, a me piace Stravedo per Krizetic, che secondo me è un cambiasso con molti anni in meno. Quest'anno con il modulo di Gasperini c'entra come il cavolo a merenda. Quindi insomma, questo 3-4-3 con lui che ha sempre giocato nei tre di centrocampo, playmaker basso, ruolo alla Pirlo, tanto per dire, non c'entra nulla. E poi onestamente non voglio sottrarmi alla responsabilità, però siamo a fine luglio, secondo me c'è tutto il mese d'agosto che comporta degli arrivi, degli ingressi che andranno probabilmente a occupare delle caselle che in questo momento, potessi io chiudere il mercato, saprei dirti, ma so già che non sarà così, purtroppo. Senza molta originalità dico che tempo due mesi, ecco, non sentiremo più parlare a fianco di Ibrahimovic di Cassano, Inzaghi, nessun altro, ma solo di Al-Sharawi. Quindi non è un giocatore da grande squadra, può giocare solamente nel Milan e in poche altre. Ma sai che io credo che è proprio questo sia proprio quello che i tifosi del Milan si augurano, anche perché Cassano penso abbia già finito la sua stagione a Milano. Due anni di pensione pagata. Se Mister X è davvero De Benedetti e non è un altro che va a inserirsi nel ruolo di El-Sharawi, potrebbe questa essere però la sua stagione. L'hai guardata sul rompipallone adesso? No, giuro, devo ancora leggerlo. Leggo subito. Allora, rompipallone, lo sto leggendo in diretta con voi. Problemi al Milan. Ieri Allegri ha ricevuto la formazione da schierare firmata da Carlo De Benedetti. Ma per forza, il genio è un grandissimo. Ci sentiamo tutte le mattine. Grazie a Paolo Ghisoni e grazie a Stefano Olivari. Grazie. Ricordo il libro che abbiamo presentato oggi, La Giovane Italia 2011, gli Under 19 in cui crediamo. Noi ci sentiamo invece lunedì dalle 2 alle 3. Sarà l'ultima settimana di A Tempo di Sport. E poi ci fermeremo fino grosso modo al 20 agosto per da lì riprendere con la programmazione 7 giorni su 7, tutti i giorni a parlare di sport. Buona giornata.